Sei C. Ascolta e trasforma. Lo zaino è pieno. Gli zaini sono pieni. Lo zio è giovane. Gli zii sono giovani. Lo studente è straniero. Gli studenti sono stranieri. Lo spettacolo è interessante. Gli spettacoli sono interessanti. Lo scolaro è piccolo. Gli scolari sono piccoli. Lo spazio è limitato. Gli spazi sono limitati. Lo specchio è utile. Gli specchi sono utili.